Purtroppo oggi non c'è nessuna voglia di festeggiare perché questa guerra è veramente un'afflizione per tutti, ma soprattutto per le donne, perché come sempre le guerre colpiscono in maggior misura la popolazione civile e tra queste le fasce più deboli della popolazione civile, entro le quali ci sono purtroppo sempre le donne e i bambini. Voi in occasione dell'8 marzo diffondete anche i dati di accesso ai centri dell'Emilia Romagna. Lo scorso anno, nel 2021, ai 15 centri che fanno parte del coordinamento dell'Emilia Romagna, si sono rivolte ben 4.350 donne e questo dato rappresenta un incremento del 6,7% in più rispetto alle donne che si sono rivolte ai nostri 15 centri nel 2020. Tra queste donne, tra queste 4.350 donne, il 76,4% sono nuove donne, quindi donne non già in percorso. Tra queste il 35,5% sono straniere, mentre la stragrande maggioranza, quindi il 64,5%, sono italiane. La stragrande maggioranza delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza hanno figli, e precisamente il 69,8%. Il 55% di questi bambini, figli delle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, ha subito a loro volta violenza nell'ambito familiare, violenza assistita oppure violenza diretta. E quindi registriamo quest'anno un incremento degli accessi ai nostri centri rispetto all'anno precedente, un lieve incremento che però conferma quel trend di aumento degli accessi delle donne rispetto all'anno pandemico, al 2020, che invece aveva fatto registrare nei primi tre mesi un decremento del 50% rispetto al 2019. Quindi il venir meno di alcune restrizioni ha permesso alle donne di tentare di uscire di più da questioni di violenza domestiche. Sì, certamente. Allora, questo trend di fuoriuscita l'avevamo registrato subito già dopo l'aprile del 2020, quando cioè era finito maggio, era finito il lockdown e c'era stata una ripresa massiccia degli accessi delle donne nei centri antiviolenza, che quest'anno si riconferma, quest'anno io intendo ovviamente il 2021, si riconferma in pieno. E sappiamo che le donne hanno subito molto anche la pandemia dal punto di vista lavorativo, sono quelle sì, che hanno registrato i maggiori problemi, e questo, come dire, anche la questione dell'autonomia anche all'interno della violenza, quanto pesa? L'autonomia è fondamentale all'interno della violenza, perché spesso queste donne subiscono violenza negli anni, sopportano questa violenza proprio perché non hanno la possibilità di affrancarsi dal ciclo della violenza, non hanno questa possibilità perché non hanno un lavoro, non hanno la capacità di mantenere se stesse e i propri figli da sole. Quindi per l'empowerment femminile è fondamentale il percorso di autonomia lavorativa. Il governo, per la fuoriuscita dalla pandemia, grazie anche ai fondi europei del PNRR, ha predisposto diversi progetti. Che valutazione date per la componente appunto di genere e anche per il contrasto alla violenza di genere e delle risorse stanziate dal PNRR? Allora, è vero che il PNR ha stanziato delle risorse, ma sono soprattutto risorse a favore della famiglia, cioè per gli asili, per l'agevolazione delle donne madri lavoratrici, che è sicuramente un problema meritevole di essere trattato, ma serve invece anche dei provvedimenti mirati alle donne in quanto tali, quindi alla promozione dell'imprenditoria femminile, del lavoro femminile, sulle politiche per le donne migranti, perché senza un reddito, senza l'autonomia di un reddito, le donne purtroppo sono relegate, come dicevamo prima, entro le famiglie nelle quali spesso subiscono violenza.